Lello. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora, ora. Ora. Ora, Brecco. Avanti con Brecco. E buongiorno, qua Rosso da Radio Vivaro, fronte Tanit, barra mobile. Sì, qui. Anche qua, barra mobile, zona di punti. Zona di punti. Ed allora, neanche tanto lontana. Sì, non è lontano, no. Nome in attivo? Sì, Mauro. Ciao Mauro, ciao. Forse ti ho beccato l'altra volta alla bricco, ma con gli antennoni sopra. No, l'ho appena fatto adesso, dai, questi giorni. Cappa, dai. Che cos'hai? Sì, un ala. 48? Cappa. Sì, ala 48. Anch'io un 48, una Sirio 5000 piazzata sul fianchetto e un lineare, un Alan 777. No, io qua lineare niente, l'antenna è qua, basta. Ma senza, un po' di ganci fai, solo zona di Sassari e già provato, ma no, nulla. Lo so, vabbè, ma mi serve momentaneamente. Andè bene, setup a casa cos'hai? Non t'ho copiato, no. Che setup hai a casa? E a casa niente, devo prendere l'antenna perché la mia mi si è rotta e la devo piazzare. KK, fai anche VHF, VHF o solo 27? No, solo 27. K dai. E niente, da. Magari ci sentiamo più tardi quando mi allontano un po'. Ok, K, allora ci sentirci. E già, ciao ciao. Ciao. C'è qualcuno? Ha tempo di dirci? C'è nessuno. C'è una madre? Ho aperto. Ah, ciao Gianfra, ben sentito. Ciao, buonasera. E beh, che si dice? Ieri non c'eri, c'era la battaglia ieri. ieri. Sì che c'ero. Però non ero... C'ero ma non c'ero, ecco. Quindi hai sentito il bombardamento, dai, ci vediamo, finisca questa storia, dai, io la prendo sul ridere, dai, non me ne ho fatto nulla, però dico, molte volte qualcuno se la prende anche troppo a cuore. Sì, è peccato che stia allontanando tanta gente, sta facendo che rottura. E poi con cosa si gioca se tutti vanno via? Infatti succede così, poi alla fine finisce anche il gioco per lui. Ma vabbè, comunque di pane in frasca. Ieri mi è capitato di guardare un film, no, Midway, la storia che uno cade in acqua. E mi ha molto seccato, devo dire, perché io ho visto quello famoso di che c'era Henry Fonda, Robert Mitchum, cioè attori di quel calibro, no? Di Midway. Però il film era totalmente differente, e lo sai perché? Non ho capito il titolo del film, è un film di che cosa? Non ho capito, se puoi ripetere. Sì, Midway, la battaglia di Midway, quella che si è svolta nel Pacifico contro i giapponesi, no? Il film era basato su questo. Io avevo visto anche quello vecchio, risalente agli anni 70, credo, in cui c'era Henry Ford, Robert Mitchum, l'altro famosissimo, cioè c'era un cast stellare veramente. Però messi davanti i due film, che avevano degli effetti assolutamente diversi, e quello più moderno ci perdeva parecchio. Lo sai perché? Non lo so, l'ha fatto sul computer, probabilmente gli attori, le navi erano tutte cose fittizie, immagini create col computer. Ma tra le cose, quello dove stai dicendo tu, c'era il giapponese, l'ammiraglio Yamamoto, Toshiro Mifume, era un film, un colosso, aveva speso un sacco di soldi, però era più partigiano per gli americani. Sì, allora ero proprio a quello, diciamo, ho detto un cast di primo ordine. Sì, hai detto bene. Allora ti diciamo le navi erano navi, no? E gli aerei erano aerei, ci avevano, come dire, te ne accorgi, no? Quando sono, c'è qualcosa di strano. Quelle lì era tutta roba reale, praticamente costosa proprio a non finire, e tutte belle cose lì. Questo qua invece era praticamente il 70% senza niente, cioè senza mezzi, era tutto virtuale. Però un virtuale fatto male, se tu hai visto Il Signore degli Anelli, ecco, sia Il Signore degli Anelli, sia l'altro grosso, Il Trono di Spade, cioè, ma di lì, cavolo, il drago ad esempio era una cosa praticamente identica a una cosa vera, e lo stesso Il Signore degli Anelli, hai visto gli effetti di quando camminavano le truppe, era scioccante, o lanciavano le frecce. Questo qua invece, gli aerei quando andavano a svoltare, se ne accorgi, facevano una cabrata veloce, erano tutti strani, come se fosse un giocattolo mosso da una mano a un bambino, guarda. Quindi degli effetti degli effetti speciali, chiamano così, quasi, non dico ridicoli, ma di vicino, perché proprio te ne passava la voglia, ecco. Sì, molte volte non li curano a livello di PlayStation, erano. No, quella battaglia, quella di Midway, quello famoso, il film di quello che hanno vinto l'Oscar, di lì c'erano immagini reali di guerra, erano dei filmati proprio di guerra reali, cioè, e quando c'erano i kamikaze, gli aerei, i zero giapponesi, che molte di quelle immagini erano proprio reali. Infatti te ne accorgi dalla qualità pure dell'immagine, ci sono delle ispezioni, c'erano i cameraman, diciamo, di guerra dell'epoca, e molte immagini erano rivelate proprio vere, come si chiama, molto realistiche, perché erano vere. Questo che stai dicendo tu, Midway, sono immagini fatte, magari prendono un oggetto, un aereo anche telecomandato, lo fanno fare dei movimenti, si scannerizzano quell'immagine lì e poi te la mettono in un ambiente digitale, ma non ha la dimensionalità di un'immagine reale. Per quello te ne accorgi anche con questi videogiochi, li stanno facendo sempre belli, però la tridimensionalità gli manca, questi della PlayStation, questi FIFA, quelli del calcio, eccetera eccetera. Un po' quella della Formula 1 un po' riesci un pochettino a fare qualcosa, però poi tutto il paesaggio è tutto finto, si vede, però la macchina molte volte ti inganna. Sì, ma ripeto, sono di bassa qualità, perché quelli ad esempio, il Signore degli Anelli, tanto di cappello, e non vi può dire neanche a, è lo stesso anche l'altro, Il Trono di Spade, e tutti quei generi lì che hanno fatto, però di altissima, praticamente dalla KBO, sono per fanno 10-0, capito? Questo evidentemente hanno proprio tirato la cinghia, ma affidato le cose adesso fa abbastanza scadenti, diciamo così, perché poi la qualità finale è molto bassa. Una delusione, guarda, l'ho visto su Netflix, anzi no, su Prime Video, una cosa quasi a livello fare un cartone animato. Già lo so, ma diciamo quando fanno queste grosse produzioni ci vogliono un po' di soldi per fare quei film tipo Avatar, Il Signore degli Anelli, e ho visto che era spettacolare come si chiama, effetti, era la battaglia dei due regni, non so se l'hai mai visto, ai tempi della Cina, della guerra in Cina, c'erano delle armate di 50.000 uomini, poi gli arcieri, le cose, le catapulte, erano degli effetti allucinanti. Sì, ma lo fanno su quasi tutti i film oramai, e di lì c'è proprio, si vede l'accuratezza, la qualità di tutto. Questi ci hanno messo anche il dipolo davanti al coso del pilota, il dipolo tra muso e coda, che era una cosa che sembrava disegnata. Sui piccoli dettagli poi, se non sono curati, si vede molto. Comunque, vabbè, l'abbiamo digerito, dai, meno male che era anche una storia vera, ma proprio fatta male, perché raccontava di questo pilota che è caduto in acqua, che è stato abbattuto, e che poi alla fine non è morto, ma lo salvato. Però meritava qualcosa di più la storia. Vabbè. E così, comunque vabbè, per passare il tempo. Invece stasera mi ho guardato una cosa buffa che mi ha riportato indietro. Stanley Ulio, una versione non fatta, bianco e nero, sì. Però devo dire che all'epoca, porca la miseria, fa sempre ridere. E mi ha meravigliato proprio questo, che è quasi impossibile che una persona non riesca a ridere guardandoli. Saluti, che avanti. Più forte Luca e io. Sei rauco? No, assolutamente no. Buonasera. Ciao Luca, la compagnia mia di Gianfranco. Stiamo un po' raccontando di film, di effetti speciali. Io parlo dell'epoca che ho fatto una storia, il film che ero abbastanza giovane, diciamo, ero ancora a scuola. Mi ricordo il film quando era uscito Guerra Stellare, avevamo rimasti scioccati dalla qualità delle immagini e dagli effetti delle astronavi, combattimenti eccetera. Ciao Gianfranco. Comunque la portante l'hanno sgamata, sicuro. Erano sotto casa sua ieri. Speriamo che finisca così, finisca in una bolla di sapone, dai, che tutto si cancelli e chi la faceva se ne dà conto di quello che ha fatto e finisca tutto così, senza allargarci troppo, dai. Sì, ma non vanno bene queste cose mo che i bambini li fanno, pensa a tu. Avanti Gianfranco. Sì, sì. Tra l'altro non era la persona che si diceva che fosse, comunque. Vabbè, ok, niente. Poi alla fine, ciao Luca, scusa, poi alla fine sono quattro chiacchiere al bar che facciamo, cioè ci manca il caffè, a meno che non ce lo facciamo qua, però sono quattro chiacchiere per passare una mezz'oretta, tranquilli, senza rompere le scatole a nessuno. E quindi non c'è neanche ragione, neanche motivo di disturbare. Se entrava tranquillo magari faceva una chiacchierata anche lui, tutto lì. Beh, in effetti è così, funziona così, non è che uno, cioè, allora, il discorso è questo: se uno non ti piace non ci entri. A me è capitato anni addietro, in vari canali non entravo, cosa vado a disturbare perché non mi piace la persona con cui parlare, no? Io non ho parole veramente qua. Ma io non mi sbaglio, non mi sbaglio. È così, avanti Roberto. Vabbè Luca, io dico una cosa, io penso dopo quello che è successo ieri la persona si sia un po' ricreduta, si faccia un esame di coscienza e dice dai finiamola qui e continuiamo ad andare a rimanere tranquilli, perché qualcuno si è arrabbiato tantissimo ieri. Io ho acceso un attimino ma ho visto qualcuno veramente arrabbiato, e prima di arrivare a fare certe cose conviene finirla lì. Io dico sempre cerchiamo di evitare di rimanere, perché io sono sicuro che sarebbe successo qualcosa di più bruttino. Adesso lasciamo correre, passare tutto come che non sia successo niente e finisce qua il discorso, perché se ne parliamo troppo è peggio. Speriamo bene che la persona che faceva queste cose ci sia ricreduto, magari l'ha fatto in un momento di rabbia o di stizza, non lo so se c'è un motivo valido. Io per me se c'è un problema con la persona o non entri in radio se proprio non ti piace come hai detto tu, oppure lo affronti, dici me lo becco, cosa stai facendo? Funziona così. Ti faccio un esempio, a me se non piace Gianfranco non ci entro, cosa entro a disturbarlo, a cosa, per quale motivo? Un attimo Bianco. Vai Gianfranco. Sì, ma poi siamo tutti qua per la stessa cosa, passare, ripeto, una mezz'oretta tranquilli e poi andarcene a guardarci la televisione oppure fare altro, ecco, è una sorta di relax dopo il lavoro, dopo le scocciature, dopo tante cose, e quindi uno passa un po' di tempo così alla radio perché è affezionato a questo mezzo, ma non c'è motivo di veramente, funzionando anche il numero, poi ci sono solo due ruote tutti i giorni, una qua, una sul 23, qualche volta ce ne sono tre, l'altra è sul 12, credo. Non c'è motivo veramente, anzi dovremmo essere contenti che viene ancora ricordata l'uso della radio, ecco, perché anche sulle altre frequenze è tutto è deserto, perché molti purtroppo non ci sono più, tanti oramai non sai, con l'età a volte si lascia un po' perdere e quindi è così. Riprendi, Roberto. Già lo so, ma io non so se mi conosci, almeno in radio, non dico di persona, la radio deve essere un divertimento, per me è una valvola di sfogo, dico sempre, sei franco, da lavoro, cioè, ci accendo 10 minuti la radio, se c'è qualcuno ci facciamo due chiacchiere, se mi interessa l'argomento entro, se no molte volte mi piace anche ascoltare, giro, faccio e cose, sicuramente non mi arrabbio io per la radio, quello è poco ma sicuro, trovo qualcosa di meglio da fare e ci deve essere un valido motivo per farmi arrabbiare, non sicuramente per radio. Ciò che ho cerco è di drammatizzare quando ci sono molte volte queste portate, che vabbè, già si stanca e cosa, non mi diverto, nel senso di quelli che si arrabbiano, che dicono adesso qua balla, non me ne ha fottuto, preferisco spegnere tutto il power e me ne vado a fare altre cose. Vediamo se Luca rientra, nulla, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, attenzione 10, chi vuole entrare, Nisba, avanti a te di nuovo Giafra. No, stavo dicendo, ti ricordi tu quando era uscito il film Guerre Stellari? Sì, mi ricordo quello, ma anche nei telefilm, se ben ti ricordi, forse un po' prima, anzi sicuramente prima di Guerre Stellari, non so se hai visto il telefilm Galattica, anche quelli non è, anche lo stesso, se andiamo anche prima, negli anni 70, negli anni 70, non so se te lo ricordi, c'era UFO, con Staker, Base Luna, e c'era anche l'altro che non mi viene, mannaggia, con Martin Landau, Spazio 1999, quindi figurati. Allora UFO ero ragazzino, lo ricordo benissimo, considerando l'epoca e gli effetti dell'epoca, ho visto quando facevano questi rumori, io mi sono anche dettagliato su YouTube, ti spiegano anche come facevano il rumore della navicella spaziale di UFO, quello quella specie di fischio, come lo generavano, e poi quei dischi volanti li costruivano piccolini proprio in coso, li inquadravano con delle telecamere particolari in modo che davano un effetto che giravano, eccetera eccetera, e era veramente bello, comandante Straker, base lunare, base luna, poi era molto bello che però non l'hanno mai più ridato, era Spazio 1999, quello che hai detto tu, era veramente Anderson, era fatto dai fratelli Anderson, non mi ricordo come si chiamava i registi di quella, dei produttori di quel programma, era il 13 settembre, proprio il giorno del mio compleanno, 13 settembre 1999 era ambientato, mentre UFO era 1981, mi ricordo c'erano quei computer a nastro con le bobine eccetera, però all'epoca erano molto innovativi, veramente belli, mentre ti dico Star Trek mai piaciuto, proprio una cosa che non mi ha mai attirato, poi di gente diventava scema, c'è Star Trek a quell'ora, la televisione, io proprio zero assoluto, mai piaciuto. Sì, no, Star Trek, cavolo, quello là iniziale magari era un po' anche come sigla lasciava desiderare, però poi con i film hanno dato il meglio di sé, come qualità, come effetti speciali, anche come linearità della storia, cioè non è facile fare tante serie TV su più o meno sempre lo stesso argomento, sono riusciti anche a farlo generazionale, che non è cosa da poco, comunque effetti notevoli, ma quello è, diciamo, non si poteva fare altrimenti, forse allucinante anche lì, però gli effetti notevoli. Se di UFO mi piaceva moltissimo scriveva, te lo ricordi, l'aereo che partiva da sott'acqua. In un certo senso molti di questi telefilm, anche film, erano come delle storie che prevedevano il futuro, perché molte cose poi si sono realizzate. Sì, no, UFO me lo ricordo benissimo. Io ho, l'altro giorno, siccome ho collezionato un po' di tutto, ho trovato l'album delle figurine UFO che avevo completato, ero soddisfattissimo, ma quello skydiver era quello che usciva dall'acqua e partiva una specie di aereo, tirava fuori quei missili, no, poi era bello. Poi c'erano quelle navicelle spaziali che c'avevano una specie di siluro davanti, quando attaccavano un colpo unico c'avevano, era, diciamo, nella semplicità, era molto, molto bello, molto affascinante. E ti dico, quando eri piccolino, perché era molto piccolo, ti dava un po' di paura, in un senso di, non dico di terrore, però c'avevi un po' di ansia quando vedevi queste navicelle, dicevi, ma se vengono davvero gli extraterrestri, cioè di piccolino si parlava di cosa. Mentre cosa era un po' più moderno, con lo spazio 1999, è sempre ambientato, poi la Luna si era allontanata dalla Terra, allora era bello. Io ogni tanto, quando avevo tempo, accendevo YouTube, ci sono tutti gli episodi, cioè dal numero 1, quando si allontana dalla Terra, la Luna, sino all'ultimo che finisce, che però non l'hanno mai completato, dice lo dovevano continuare, poi forse per questioni di costi. Mentre UFO hanno fatto proprio il film, lo davano anche, figurati, a TeleG, qualche volta l'hanno ripetuto. Sì, ma la cosa che mi faceva più ridere comunque era il satellite. Ricordi, sembrava una mosca ingrandita, avvistamento UFO a 1 milione di miglia in avvicinamento. Questa astronave aveva una velocità fantastica, credo che avessero anche una misura, 2 terre, 4, una cosa del genere, per dire oltre alla velocità della luce praticamente. Sì, no, ma era tutto, cioè era molto avveniristico, perché era il futuro quasi attuale per certe cose, magari non visto proprio così molte cose, però molte cose ci sono avvicinate, dai, come tecnologia. Poi facevano ridere quelle maniglie che passavi, che aprivi le porte, quella specie di pass, ti ricordi che c'era quello lì, poi tutte le tipe con i capelli, che prima era bianco e nero, poi l'abbiamo visto a colori, quando è nato era in bianco e nero, c'era il comandante Strecker, biondo, ossigenato quasi, poi c'era il colonnello, non mi ricordo come si chiamava, l'altra tipa, la dottoressa, no, lo ricordo benissimo, ho dei bei ricordi di quel coso lì. Vincevano sempre loro, poi quando una volta solo che avevano preso colpi e buh, che avevano abbattuto il coso. La cosa strana è che questi dischi volanti venivano sempre abbattuti, quindi venivano in una velocità super ipersoniche, però con un razzetto cagato ne li buttavano sempre. Lascio un attimo il bianco solo per poi vedere qualcuno rientra o come entrare. Sì, era così, però a volte riuscivano anche a far fuori qualcuno. Erano inglesi, però fatti molto molto bene. Il telefono ad esempio, adesso a noi ci fa ridere, le macchine con gli sportelli che si aprono, tipo con le macchine italiane, non mi viene, adesso che c'erano gli stessi sportelli, forse Lamborghini, che aprivano verso l'alto con la ristrecchia, hanno messo il telefono, guarda, notevole. Sì, non sono proprio la di Gabbiano, perché la di Gabbiano la prendo, però tipo Lamborghini, la Countach, cioè, le macchine così, la Uraco, la nuova Murcielago, hanno quegli sportelli che aprono incenerati davanti e si ribaltano, ma poi la macchina era bruttina, sembrava una Seaton, tutta stilizzata, eccetera, eccetera. Poi c'erano quelle specie di carri armati, quelli come si chiama, cingolati, che camminavano nel bosco, ma cioè, erano, diciamo, nel piccolo erano fatti discretamente, poi la base era tutto un plastico, però gli davano queste luci, la facevano sembrare vera, quando poi sbattevano che atterravano questi cose, queste navicelle sul coso, c'erano le extraterrestre, ti ricordi le extraterrestre che c'aveva quegli occhi, sembravano con il coso, con la lebbra? Sembrava un cazzo, sì. Sì, di quella della Luna mi ricordo il sibilo che facciamo, il motore sembrava ad aria compressa, facciamo no, però erano proprio effetti fatti bene, tanto di cappello, quindi mi piaceva moltissimo quelli di anche perché ti ricordano quando eri ragazzino. Sì, piena infanzia, dai, ragazzino, quello vissuto negli anni 70 ci avrà avuto intorno agli 8-10 anni, dai. Infatti. E il adesso oramai diciamo è fatto tutto con effetti, comunque hanno un costo enorme lo stesso, e quelli fatti bene. Tu pensa cosa hanno dovuto fare per il trono di spade, il Signore degli Anelli, praticamente. Ma poi anche le regie sono insomma fatte da grandi registi, tipo adesso il Signore degli Anelli l'ha diretto molte volte, quello là che ha fatto Bot, quello che ti dicevo, John Petersen, una cosa del genere. Sì, no, ma con livelli, cazzo, ma senza la carta di moto, anche un film tipo Harry Potter, ci sono degli effetti speciali, io parlo il numero uno, quando l'ho visto al cinema, rimane visto, Salghetti, non so se te lo ricordi, lo stesso, gli effetti speciali che avevano quei film erano, non parliamo di Avatar, gli ultimi di coso, però erano sempre effetti spettacolari, e poi fanno, molte volte fanno quei filmetti, chiamiamoli filmetti, se cadono parecchio. Io mi ricordo quando era uscito Terminator, il primo Terminator, te lo ricordi? C'erano degli effetti speciali strabilianti. Era la prima volta che si utilizzavano quegli effetti lì, infatti era il numero uno, all'avanguardia. L'unica cosa che si sono cagati quando c'era quel camion, dietro le immagini, che era, sembrava in cartone, quando lo sparavano, veniva incendiato quel camion e avanzava, lo sparava, sembrava proprio cartone. Sì, e anche l'effetto di trasparenza. Anzi, sì, Terminator, ma poi c'è l'altro, che c'era anche Predator, ecco, Predator, micidiale anche quello, sia Predator, sia anche il Predator l'altro, di cui compare Alien praticamente. Sì, ma Predator quando è uscito era bellissimo, un bel film, mi era piaciuto, poi quando ci mettono, c'è uscito Predator contro Alien, quella era una mezza cagata, e poi c'era l'altro film, lo stesso c'aveva degli effetti, adesso non mi viene, te lo stavo dicendo, mi c'avevo sul pelo della lingua, e un altro film lo stesso che aveva fatto degli effetti all'epoca avveniristici, il primo comunque è stato Guerre Stellari, quando è uscito Guerre Stellari era strabiliante, era, per tanti anni è stato sempre come punto di riferimento, mentre Alien non mi era piaciuto, perché piace quel genere, era troppo tipo 2001 Odissea nello spazio, sono di quei film troppo chiusi che non ti danno, hanno fatto la storia del cinema, però non era il mio genere, mentre mi era piaciuto tantissimo Guerre Stellari, devo dire era uno dei più belli all'epoca, per non dire il più bello, e poi mi è piaciuto tantissimo Salghetti quando l'avevano fatto, lo stesso, cioè, dei belli, e poi quello di Schwarzenegger che era ambientato su Marte, come si chiamava, Atto di Forza, non ricordi gli effetti di quello lì, allucinante erano all'epoca. Sì, ma il più vecchio di tutti, in cui ancora c'erano le macchine un po' datate, era Coso, tra i primi E.T. e se vogliamo anche lo squalo. Lo squalo non era ancora fatto con mezzi, diciamo, informatici, ecco, era proprio una costruzione, però caspita, in E.T. era Rambaldi, un italo americano che faceva, caspita, insomma, considerata l'epoca, ha fatto la storia anche quello. Sì, Rambaldi, adesso non ho più sentito parlare, però all'epoca con quel personaggio che aveva preso anche l'Oscar, aveva vinto il coso, era italiano di origine quello lì, e poi chi c'era l'altro film, lo stesso che faceva, aveva fatto la storia della, di queste, poi lo stesso, non parliamo di film di fantascienza, un bel film per gli effetti speciali era Coso, lo ricordi tu, La Tempesta Perfetta, quello di con George Clooney, di quella nave che si trova in mezzo alla tempesta, quelli hanno costruito una piscina di 300 metri, non so quanta gente si è sentita male perché questa specie di nave che si veniva movimentata, questa struttura che rappresentava la nave, dice non so quanta gente ne sono usciti gli occhi dal mal di mare perché era una piscina profonda, e più c'era questo meccanismo che la faceva muovere, questa struttura che rappresentava, c'erano, arrivavano delle ondate spaventose, però dice le onde c'erano veramente perché questa roba entrava sotto l'acqua, la scena finale, non so se ti ricordi la parte finale del film, c'erano degli effetti speciali allucinanti, sono fatte proprio in una piscina. Sì, sono veramente notevoli. notevoli, e quelli adesso li fanno, fanno in serie, però per, siccome costano molto, allora figurati quello che era costato proprio Midway anche Pearl Harbor, che erano molto molto in tutta la serie di Midway e Pearl Harbor antico, diciamo così, perché poi c'è anche quello moderno che è diverso. Si è notato molte scene, moltissime scene venivano riciclate perché, per risparmiare, proprio perché all'epoca i costi erano stratosferici. Sì, sì, ma poi le inquadravano, per dire, quella stessa scena con 5 telecamere ti davano un'immagine per una direzione, una dall'altra, sembravano scene diverse, ma era sempre la stessa scena. Così quello Tora Tora, te lo ricordo, lo stesso un film che ha fatto la storia del cinema, parliamo del cinema di guerra. Ah, ce ne sono tanti di questi film come effetti speciali, ma gli stessi con Indiana Jones, quei film lì, lo stesso hanno fatto la storia del cinema per quegli effetti, poi no, mi viene in mente quando vedo gli effetti speciali, te lo ricordi Pinocchio di cose, come in Cine, quello con Nino Manfredi e cosa, il pesce cane in cartone. Sì, sì, sì. E beh, anche la balena c'era lì. Sì, no, ma pensando, eppure era molto, abbastanza credibile, mi ricordo quando ero piccolino, e te lo riguardi adesso, dici, cacchio, quello hanno speso pochissimo, però hanno dato un'idea del film, veramente bello. Io quando me lo riguardo, tante volte è capitato di rivederlo, però rimani sempre stupito, perché dici, cavolo, questa cosa ci guardava, guarda, ed è sempre bello vedere una scena, adesso fa ridere, se lo guardano i ragazzi due si mettono a ridere, però vedere la semplicità, gli attori, la povertà delle scene, perché c'erano 4-5 attori per fare tutto il film, fai 10 dai con la, col coso, con mangiafuoco, con il gatto, la volpe, i carabinieri, e c'è il giudice, fai 10-12 persone, e hanno fatto un film veramente fatto bene, bellino. Beh, da ridere proprio no, perché se tu pensi, ripeto, a una semplice serie di San Leolio eccetera, e all'epoca, cioè, se ti vuoi buttare la finestra eri realmente su una finestra, gli effetti speciali a quell'epoca erano veramente veramente pochi, cioè tenivi il fatto che se ci pensi ancora oggi li trasmettono, è una meraviglia, tra l'altro anche bianco e nero che rende di meno, poi con quelle pellicole degli anni 30, anche prima degli anni anche 20, cioè praticamente il cinema che nasce, però rimani, è una cosa talmente bella che ti lascia veramente a volte, nonostante tutta la nostra tecnologia, tutte le nostre cose, praticamente sono opere d'arte oramai, sono troppo, già il solo pensiero ti viene da ridere, ecco. Io mi ricordo che li guardavo quando ero piccolino, che c'era il cinema lì a Cappuccini, e infatti, siccome sai, all'epoca si era molto puritani, giusto San Leolio potevano trasmettere. Sì, sì, ma poi c'erano tutti i film, io mi è capitato di vedere anche da poco un film di Charlie Chaplin, che lui scappava in mezzo alla montagna, ne rotolavano le pietre, cosa ne saltava addosso, stava scappando dalle guardie, ma aveva fatto 2000 chilometri fuggendo di tutti gli effetti, vedi questi mega massi tutti in cartone puliti, no? Poi sembravano leggermente accelerate le immagini, lui sembrava che corresse di più dal normale, così l'altro Buster Keaton, tra le cose del cinema muto, hanno fatto la storia, le immagini di coso, di questi personaggi erano, se te le guardi adesso fanno anche un po' tenerezza. Facciamo un attimino di bianco, vediamo se è rientrato Luca, se no riprendi tu Gianfranco. Ma critici d'arte siete diventati. È già un grido, io sono peggio di Sgarbi, me non hai mai compreso. E beh, Natalia. Ciao Roberto, ciao Gianfranco, buonasera a tutti e due. Nellomi? No, avevamo trovato. Natalino, lo sai che sono passato davanti a casa tua, Natalino, non sono riuscito a avere la lantella, l'aveva buttata giù nella. Se l'avessi buttata giù tu non saresti parlando con me adesso. Boh, non lo so. No, ci facevo caso passare. E poi ho visto giù, nella parte bassa, prima di arrivare all'incrocio dove c'è quello del rubato, quello delle cose, sulla sinistra, via delle muraglie, come si chiama quella via? C'è un'antenna, si vede di lì, però non ho mai capito di chi è. L'ho vista oggi. Come si chiamava quello lì? L'infermiere. Bah. Madre Francesco. Sarà quella che hai visto tu. C'è scendendo sulla sinistra, all'altezza di quella piazzettina che c'è, che dove mettono le piantine qui gli abitanti di lì. E lui dovrebbe essere. È nata lì, padre Francesco mi ricorda qualcosa all'epoca, però non ce l'ho presente. In che zona era? È arrivata di nuovo la portantina. Aiuta, bravo, tu veramente stai cercando, eh? Sì, è quello di ieri. Ah, ho fastidio questo fischio, mi entra nelle orecchie, perché c'ho l'altoparlante esterno, che è anche lontano, ma è molto acuto, ti entra nelle orecchie, è un fastidio impressionante. Noi stiamo cercando di difenderlo in tutti i modi, questo poveraccio, questo è stiamo cercando di trovare qualcuno sotto casa, che lo meni tu, una roba da matto. Io sto aspettando 5 minuti che mi chiamano, che deve arrivare la pizza, infatti mi possono chiamare da un momento all'altro, per cui vi anticipo l'uscita mia da tutto questo ciaramento da detto in sassarese. Dai, proviamo a parlare lo stesso, tu li passi, Gianfranco passi Natalino, prova Natalino. Penso di passare rotture io, penso, capito? Sì, lo passi Natalino, però ti disturba tanto, a Gianfranco un po' di meno, perché il fischio è molto fastidioso, non so con cosa lo genera, magari mettendo banda laterale, fischiano, ma non so con cosa lo faccia. E fregatene, vedrai che te la sta cercando con l'antennino lui. Vabbè, dai, stavo dicendo, oggi c'è un argomento cinematografo, stavo raccontando un po' la storia del cinema, no, io diciamo, adesso magari ne guardo di meno, ma ero abbastanza appassionato di film, quelli italiani e poco e nuda, diciamo, non sono grande appassionato, a parte quelli di Alberto Sordi che erano i miei preferiti, quelli che penso sia numero uno come attore, da ragazzino Totò, però adesso attualmente film interessanti italiani non ne vedo io. Beh, non è non so se hai interrotto il parlante, perché stai parlando e poi di colpo non ti ho più sentito. Gianfranco, cosa hai detto? No, forse mi sono allontanato. Ho detto non ti dimenticare di non e anche a te la sta mettendo, non so se a me me la sta mettendo, ma portante a te te la mette comunque. La mette indiscriminatamente a tutti, lo vedi che è scemo, questo qui è scemo. Non lo so, io non so che divertimento ci sia. No, Alberto Sordi ero fissato, tutti quanti, ma io lo considero numero uno perché è un attore completo, dal cinema comico al cinema drammatico, ha fatto tutto, uno dei grandi, come si chiamano, i più grandi artisti italiani, uno di quei primi cinque ce li metto in mezzo alla cosa, da lui Totò, Gassman, quella gente lì li metto, Manfredi, li metto tra i primi cinque. Dei miei preferiti Alberto Sordi è il numero uno. Beh, tanto però Manfredi ha lavorato anche con Alberto Sordi, il nome del papà e quelle cose lì, insomma, eccezionali. E ancora c'è questa roba sotto, vabbè. No, poi che ce ne sono. Mentre non piaccio proprio io, la gente diventa scema per Benini, per Pozzetto, per Villaggio, proprio quelli zero assoluto, ma neanche a vederli. Quando ci sono loro io cambio canale, proprio non li posso sentire. Ah, guarda, vabbè, quella è una cosa di gusto. Di gusto è ognuno. Gianfra, dimmi una cosa, ma io lo passo o mi disturba a me questo segnale? No, lo passi tranquillamente anche perché a te non te ne metto. E così è nata lì. Così. Ma portante c'è. E allora, è il solito con Pirla, Facciamo un po' di grandi sgamato. Ehi, poi buoni. E poi ti toccano a Ianna. Mi ha toccato lì. Ma è quello che noi vogliamo evitare, invece proprio. È sul burrone e lui si avvicina sempre di più al burrone, peggio Baredo, ascolta. Ah, sì, uno è cuglione, è inutile, è proprio coglione, non so se è una parola. Non ha capito che c'è gente cattiva, non sono gente tranquilla come noi che lasciano perdere, che se ne frega. C'è gente che le fa sotto casa, insomma fa certe azioni veramente riprovevoli, però non ne frega niente, perché non è gente brava, è gente cattiva, uno sta proprio veramente un incosciente questo, che sia grande, piccolo, medio, ragazzino, bambino, occhio. Sono rientrato io. Ci sono già andati sotto casa sua, qua non l'ha compreso. E ci, guarda, c'è chiaro che se continua, vai gli butta la porta e gliela butta in terra pure. Va, lo spiega a questa gente, finché poi magari se lo trovano davanti, uno bello piazzato, magari con una matta in mano, e cosa le dice? Non stanno bene, non vanno bene queste. Ci sono sempre stati importantissimi, non è che... Io una volta l'ho fatto, ma per gioco così, poi l'ho letto che ero io. Ma vediamo se c'ha le palle a dirlo lui che è lui, non ce l'ha il coraggio. Perché vigliacco? Non ricca neanche, perché... Ripeto, noi siamo tranquilli, ma c'è gente dietro le quinte che veramente se la chiappa sono guai. Guarda, non mi comprometto perché sto facendo una domanda, non voglio avere precedenti, sennò questa è della Biazzurro. Qualcuno ieri però ho sentito era molto molto arrabbiato, mi auguro che non agisca, perché era molto ma molto arrabbiato. Io so che ce n'è più di uno, ha rotto le scatole a un paio di persone, insomma... Non va bene, che stia attento, perché poi da queste cretinazze poi vanno anche a finire sul giornale, è una cosa penosa proprio. Occhio a quello che stai facendo, perché finché che dura poco il gioco ci sta pure, no? Fare uno scherzo. Però quando inizia a essere seccante così, poi te la cerchi e non puoi piangere, poi non si torna indietro. Allora, il discorso è questo, se uno vuole entrare la sera magari, quest'ora, si vuole fare due chiacchiere così, tranquillo, dov'è, perché devi disturbare? Perché? Punto di domanda. Se uno si vuole rilassare, sono parole veramente qua. Secondo me lo sbedo per la infumo, via. No, penso che abbia smesso, dai, lasciamo perdere. Infatti, detto, molte volte è meglio lasciar perdere, fa finta. Scusatemi, che il telefono va a mettere la pista, va. Ci sentiamo un altro momento, ciao ciao. Ciao Robè, buona pizza. Ciao Robè. Hai capito Natali? Usì, si crede che la gente ancora con lui in bocca. Ui ui ui. Si è proprio andato sotto casa sua, amì. Segnale a quello, è inutile. È inutile che vai a scappare, tanto come un po' da ciappa, nimi. E se vuoi mica che non sei due. Sì, si mi neghi. Ti attento. Niente, la butta, ehi, continua, continua, tu butta cani a Ianna. E infatti? Sei convinto che là se non vola, e che ti bussa la porta poi sono cazzi tuoi, ti scude il buo. Ah, infatti, ci passa poi anche gente che non c'entra niente. Magari apre il fratello, apre il padre, apre qualcuno. Cioè non ha capito in che epoca stiamo vivendo, mica c'è gente che si compromette solo magari perché le dici cosa, perché è passato col rosso, io ne ho visto di tutti i colori, gente che blocca la macchina, scende e te ne faccia la sportella, c'è un po' di gente mancante in giro, ma quando mai uno si illude di poter rimanere per così tanto tempo anonimo. H.I, come si diceva una volta, non so se però ogni giorno siamo questa storia. Sì, anonimato, sì, vabbè, comunque. Ripeto, a me non me ne può fregare di meno, se continua a me, c'è il tastino, li spengo, non me ne dà da mangiare il baracchino a me. Io se c'è calma, che si può fare due chiacchiere, bene, se ho pazienza, non mi interessa. Poi se c'è qualcuno che si vuole compromettere, lo faccio pure. Guarda, io c'ho tutto, quindi non c'ho problemi, anche lo sai, autorizzato, posso andare su qualunque frequenza, mi piace, a farmi una chiacchierata. Anche di lì qualcuno ci ha provato, lo hanno trovato e ti posso assicurare che non è più entrato, pure anche perché le richiamo la vicenda. Però sono cretinato, ma non ti puoi mettere a disturbare così col pensiero di passa la macchina sotto di quello che c'è al baracchino o c'è al VHF, piazza le vai sotto fondo scala, attacca l'antenna ed arriva a fondo scala e ti pizzica, ma la gente non pensa, fanno le cose, guarda, non pensano. come quelli che fanno le rapine, fanno violenza e poi lo mettono anche il filmato su Facebook. È veramente una cosa di no, quasi non c'è spiegazione. Avanti Natale. E K, cosa vuoi? Gianfra, no, la testa non gli funziona bene, è per quello che no, che fa così. Dopo quando gli tirano una bella sussa, perché guarda che ui, ho sentito cose. Sì, Natale, tutte le abbiamo sentite, ma uno apre il giornale, se legge un pochino, e guarda, la maggior parte dei delitti dell'aggressione sono per tutti i motivi, perché ha guardato male la ragazza, perché ha urtato uno, ma siamo alla follia veramente. Figurati questo, che sta rompendo le scatole da più di un mese. La stessa è piccola, non stiamo parlando di Milano, di Roma, che anche lì poi te le raccomando, no? Di lì ti bruciano direttamente la macchina o ti bruciano casa. Sono cose stupide, sono stupide, è un divertimento, è un gioco, qualcuno fa un po' bene, altri meno bene, però è un gioco, non bisogna trasformarlo in motivi di violenza così. E questo lo faccio veramente cercando. Comunque, vabbè, pazienza, faccia quello che vuole. Oh, mi ero spostato senza saperlo. Natalia, ci sei ancora? Sì, che ci sono. Ciao, la manopola sensibile per fare la tocchi e magari non ti ha colpo guardato, c'era 8-5. ho detto che quasi quasi anche io vado a mangiare qualcosa. Sono 7:30, piano piano come faccio. Provi di noi. Ma io penso solo speriamo che non sia una persona grande, magari con figli, eccetera. Vabbè Gianfranco, io me ne vado a mangiare, dai. Ci sentiamo alle prossime. Salutoni a tutti, correti per me. Giocati adesso con la macchinetta della pipì. Ecco la botta te puletti. No, adesso ho smesso un po'. Forse ho visto che qualcuno è troppo vicino per quello spirito, ma vabbè, anche quella la storia. A lavare la testa all'asino, dicono a Roma. Anche me ne vado a cenare. Buona serata a chi certamente è in ascolto. E niente, alle prossime. Ciao Luca, ciao Natalia. Ciao Natalia, ciao Gianfranco, ciao. Allora, io guardi ormai i bugnarati, tu e Guaracchino. Ciao, stavo ascoltando, no? Vedo niente, ciao. Sai che ti mando un messaggio un attimo. Non prende il telefono, Luca, non prende. Allora niente, dai, vabbè, già ci sarà a modo, dai, tranquillo. Se hai tempo domani chiamami, ciao. Va bene, ciao a tutti, divertitevi, che schifo che è. Oh Claudio, ma vuoi un segnale che come sono? Perché sono sempre a potenza ricotta, volevo vedere se ti arrivavo normalmente. Sei quasi sul più del 9:30, non te lo posso dare preciso, comunque dovrebbe essere un 9:10, 9:15. Perché 9:30 veramente mi sembra esagerato per una potenza così, però 9:15 insomma, considerato un 4:30. Tu sei alla radio ottima e più o meno lo stesso segnale, quindi anche tu non devi avere una grande potenza, tu sei c'è l'antenna abbassata. Va bene Claudio, speriamo che la smetta. Questo qua perché sta un po', insomma c'è un bel di gente incazzata nera, lo sto dicendo, che non ne vale la pena fare queste scemenze. Va bene, vado a cena, ciao Claudio, alle prossime, e non tardirare troppo, ciao Luca. Ciao a tutti, no, io ne voglio stare fuori, non mi interessa, facciano quello che vogliono, io no. Mi sono ritirato, l'avevo detto e lo sto facendo, quindi entro per salutarvi ogni tanto, ma non voglio partecipare più a niente, non me ne affutti più nulla. Ciao, buona cena a tutti, ciao. Ciao, alle prossime. metro alle 10. Hola, hola. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione, chi è? Chi è che su canale 10? Avanti! E beh, tu! Ui, ciao Robè! E beh, che combini! Mi ha giù butto una pizza in forno! Ma io me la sono appena mangiata, adesso sto facendo un po' di ora, e dopo c'è la partita, c'è la finale Juventus-Atalanta, la Coppa Italia. KK! Oh, che, come si dice? Sto andando una pizzeria in Oggi, Gemelli, non so cosa la conosce. Cazzo. A giubbagarde e tutto, e dopo te le faccio. E dopo, allora. Cazzo, mi sono messo un pochettino che c'ha un po' di freddo. Ma devi uscire un po' fuori, ma che c'è un po' di freddo, mi biglio maranno. Ma sai, mi passano i vigili. Esca, ho detto, ascolta, dammi di linaglio, ho detto, dai. Non tanto non hai fatto neanche niente, dammi i soldi. Dati i soldi, gli ho sentito lì, gli ho detto, ascolta, adesso mi hai rotto le balle, vai. Non ti biglio più nulla, vai, girami le balle. Visto che non mi vuoi fare la pizza, tanto ho capito che non me la vuoi fare, miserabile. Addirittura. È un po' che dovessi a me, quando è così scatto male, no? Poi, vabbè, sono già diventando, mi sto già girando di balle, sto diventando come una volta, aggressivo, torna. Rimanete tranquillo, che non serve a nulla, stai tranquillo. E goditi la vita senza crearti problemi, tanto. Lo so, però sto già cominciando a girarmi le palle per altre cose, sono subito dalla prima, sono tornato come intero dei 15 anni fa. Non serve a niente, tanto, te lo dico, per esperienza, non ho visto di tutto il rigore, e poi alla fine ti fa un giro di conti e dice che cosa, perché mi devo arrabbiare, ecco, fa arrabbiare all'altro, tu, futtidine. Lo so, vabbè, però, io ho capito che è duria, Varoci a bidone. Ha perso un cliente, probabilmente non gli farà una bella pubblicità, peggio Baredo, se deve arrabbiare lui. Guarda, con Obelix non ci ho mai avuto un problema, persona seria, veramente, cioè, via Grazzaretta da coso. Ma ha detto, se c'è qualche problema, Sergio, Saverio già conosci, a Milano la mia lunga, è il fratello, mi chiami, non c'è problema, cioè, con lui sempre, ci siamo sempre buoni rapporti, con Marcellino lo stesso, passano i doghi, è quello che è qua. Adesso mi bavo un bucarotto. Allora, vediamo cosa sono, ci sono andato tante volte a prendere la pizza. Ma questo che stai dicendo tu, dove c'è la pizza? E chi va la conta? Mi viene le conte, che prima c'era lì in coso. Questo Margherita di Savoia scendendo qua, non è posso cosa rubare va. Ma non c'era quello, me la mangio, quello lì sta dicendo. Adesso si è trasferito. E come ti si chiama, va? I Gemelli. No, cioè andavo a prendere qualche volta il panino, da quello me la mangio, tempo fa, ma sono un bel, adesso vado sempre da coso, quello che abbiamo nominato l'altro giorno, la Spiga, che li fa buoni, i panini, o da Roberto, qualche volta, sono Renato è diventato Wibu, però fa un po' troppo i panini, lo stesso panino che lo prende da Roberto lo pagherò 80, la Renato 5 euro, mi dirai, c'ha più personale, c'ha più spese, eccetera, eccetera, però il pane glielo dava, adesso non so se glielo sta parlando mio cognato, che dove lavorava mio cognato, le mozzarelle e tutto il resto, lo specchio, eccetera, eccetera, lo bigliava da Romate Sirogu, non va bene che tu un panino da 3,80 l'hai portato a 5, quell'altro invece da 3,50 l'ha portato a 3,80, lo stesso identico panino. Roberto, mi ha deciso un po' caretto dalle palle per aver combinato una cosa, ma vabbè, una cosa tra di noi. Vabbè, dai, nessuno è perfetto, però i panini sono buoni, il capriccio che ti fa Renato e Roberto non lo fa nessuno, tu magari l'hamburger lo puoi trovare più buono, più gustoso, ma il capriccio che fanno loro non viene per nessuno. Sai chi è bravo? Al chilometro, dove c'è il coso, Antonio, Antonio Marogna lì. No, non ci sono andato. Ma i panini li fa buoni anche il pane grosso, perché ti faccio il pane pizza, però la spiga lo stesso, però il capriccio che fanno loro, ti posso dire, lo specchio che ci mettono loro, nessuno lo fa. Gli altri usano il prosciutto cotto e altre cose, altri tipi di prosciutto, ma loro mettono uno specchio che è veramente buono. Cappa. Sì, sì, Robè. No, già sono di competenza già. Già. Già riconosco, tanti anni riconosco. Beh, sto scendendo, sa. Sì, sì, dai. Oh, stasera. Zero di stazionari, stasera. Ma tu c'hai l'accordatore esterno o diretto? Sì. No, no, c'ho lo strumento. No, c'è anche l'accordatore lui, però l'antenna non è a stazionaria. Posso attaccarci anche 300 watt, non riguarda di nulla. Ehi, stavo dicendo, la Natalino stasera, scendendo per corso Trinità.